Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca, io di libri vorrei averne addirittura 4, se possibile. Uno per la mia piccola di 10 anni, che così scopre che c'è qualcosa di peggio di Geronimo Stilton. Uno per la mia grande di 13, che ha appena fatto una tesi dell'esame di terza media. 3 per mia moglie, che così forse riprende in mano la storia della filosofia italiana che ha abbandonato da un sacco di anni. E 4 infine per me, perché visto che i libri me li sono scelti sempre io, mi piacerebbe che qualcuno li scegliesse per me. Ciao Gianluca, sono Anna, vorrei sapere come faccio ad avere un libro infame. Buongiorno, sono un vostro aficionados, sono un gran lettore, soprattutto di saggistica, so che potete dare dei libri, io li riceverei volentieri. Quanta fame di cultura, perché non esaudirla, perché non rendere felici i nostri ascoltatori in questo giorno estremo di ultima puntata in diretta di Melog? Avrete ancora un palliativo, una sorta di metadone per un'altra settimanella, e robetta avete già sentito, però è sempre vale la pena di sentirla. Oggi ci sentiamo per l'ultima volta, almeno in questa stagione, poi non lo so, non sta a me dirlo. Oggi vi attribuirò libri infami. Sì, vado alle strette, non perdo tempo, visto che il tempo è limitato e corto. Ho qui davanti il meglio del meglio di quello che gli uffici stampa dei più illustri editori italiani ci hanno mandato: scopo recensione, scopo promozione, scopo lettura, scopo marchetta, e noi ce l'abbiamo tenuti da parte per voi. Abbiamo rinunciato al privilegio di parlarne, di rendere ancora più clamorosa la gloria di chi l'ha scritti, di accodarci anche noi allo stuolo degli entusiasti, perché volevamo riservarvi la sorpresa dell'ultimo giorno. Sono qui circondato da libri infami di primissima scelta, che io regalerò a tutti gli ascoltatori che velocemente chiameranno all'800240024, però con un mandato preciso. Non è che li regalo così, li butto dalla finestra, non sono Paperon de Paperoni e non sono Padre Pio, non faccio miracoli. Soltanto a chi di voi si ingegnerà nel raccontarmi l'esito più squallido della sua estate, il proposito più triste della sua estate, la maniera più deterrente per ogni proposito vacanziero di passare l'estate, insomma raccontarci la cosa più schifosa delle vostre vacanze, quella che avrete o quella che non avrete. Fabrizio Intonti sta già vomitando dicendo: contieniti, no, bisogna essere estremi. C'è qualcosa che veramente vi fa star male? Se pensate alle vostre vacanze passate, c'è qualcosa che vi mette tristezza? Le tristi vacanze di quando eravamo piccoli, ci mettevano quei costumini fatti ai ferri con maglia di lana, che appena entravamo nell'acqua c'era la fuoriuscita genitale immediata, c'erano urticanti devastazioni della nostra tenera carne. Andando avanti, le vacanze obbligatorie coatte, le vacanze della fame fatte con i nostri amici ancora più morti di fame, che passavamo le serate a raccontare quello che ci avrebbe fatto la mamma quando tornavamo, le più recenti vacanze, quelle fatte da tanti giovani ex bambini separati, single, fidanzati, sposati, che vanno in vacanza con il triste proposito di trovare nuovi amori, partono avventure nel mondo, un viaggio in luoghi esotici. Siamo tutti persone che non ci conosciamo, ma no, una cosa sportiva, vivremo sportivamente, tutti con la speranza comunque di tornare avendo messo nel sacco qualcosina che prima mai pensavano averci messo. 800240024. Guglielmo, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a te. Ricordo triste, squallo di un'estate, se no nemmeno andiamo avanti. Guarda, qualche anno fa, un ricordo tristissimo, mi avevi inviato un libro infame, era veramente orribile, e adesso ti chiedo se mi invii uno fatto bene. Ti rattristò l'estate quel mio libro infame? No, non me lo ricordo, ma non sono neanche riuscito a leggere il titolo, era una cosa orribile. Era brutto, vero? Ti ricordi che titolo era? No, non me lo ricordo, ma era orribile, sinceramente orribile. Vabbè, cercherò di compensare questa cosa, ti regalerò, guarda, ho scelto il migliore dei libri infami, quello che veramente volevo tenere per ultimo, anche perché è un libro fantastico, è un libro che costa 18 euro per un illustre editore come Mondadori. Ti comincio dal fondo: Il dovere di cambiare dalla parte dei cittadini. Pensa bello, il titolo, Rivoluzione in corso, l'autore Renato Brunetta, è tutto tuo, bravo. Sono Ivana, volevo qualche libro infame, non tanto per me perché mi sconvolgono abbastanza i libri infami, ma per mio marito che è il suo compleanno e non so cosa regalargli di tanto infame quanto un libro. Più libri mi mandate, più felice mi fate. Buongiorno, sono Giuliani Daniel. Beh, la mia motivazione è che sono al termine del mio percorso di studi, studio filosofia a Bologna, e sto cercando di creare la più ampia biblioteca personale possibile, in modo da magari poi più avanti lasciare i miei libri, magari i miei eredi. Quindi ogni libro in più è ben accetto. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dammi la motivazione per cui io possa farti felice. Allora, aspetta, vedo, pensa, ci sono dei libri residui, delle passate infamate di 3-4 anni fa, tipo Friuli, Venezia, Giulia, vini e ristoranti. Poi questo non te lo do, te ne do un altro. Dimmi. Vabbè, vedi tu. Allora, ricordo di vacanze infame, sono andato a scrocco a casa di mia zia con degli amici, gli vuotiamo il frigorifero, gli distruggiamo la casa, arriviamo a Forte dei Marmi, quella aveva cambiato la serratura e abbiamo pernottato nel giardino per tre giorni, però facendole segnare sul vicino negozio di alimentari di tutto e di più. Accampati nel giardino della zia? Esatto, ma dove... vista mare, rigorosamente. Sì, ma c'era una fontanella per lavarvi i piedi puzzolenti, cose del genere? C'era la fontanella che annaffiava il giardino, un piccolo orto con dei pomodori e poi tutto. Vabbè, si ha ritrovato la zia che avete dei residui umani, schifosi, puzzolenti, ma non affamati, perché avete comperato tutto infamemente al supermercato. Senti, non posso scegliere perché mi viene imposta, ma ha chiamato la regia, una scelta bipartisan, sennò sembra che questa trasmissione ha una colorazione politica e non può essere così. Quindi ti regalo un libro, inizio dal fondo anche per te, Ponte alle Grazie, Saggi, pensa bello, pensa bene come ti porterà sfiga questo libro nella vita. Devi augurarti che la strada sia lunga, cioè tu dovrai faticare un sacco, non arriverai mai al tuo scopo. Vedo con i coautori, cioè le persone che hanno aiutato l'illustre personaggio a scrivere questo libro, che tu avrai nella tua biblioteca come fiore all'occhiello, con Ritanna Armeni e Rina Gagliardi. Pensa, allucina queste due immagini. L'autore è Fausto Berdinotti. Fausto Berdinotti, devi augurarti che la strada sia lunga. Con questo augurio ti lascio la prossima estate nel giardinetto di tua zia. Ciao Nicoletti, sono Fabio. Voglio un libro infame perché anche io sono uno scrittore di libri infami e mi piace l'idea che tra qualche anno magari tu sarai lì a regalare uno dei miei libri infami a qualcuno che telefonerà. Ho una nipote, pensi, che durante un'estate delle scuole superiori se ne è letta 31, non so come abbia fatto. E desidererei un libro della trasmissione perché ne ho solamente 10.000 e mi manca giusto quello lì. Quanta sete di cultura, quanta voglia di lettura, quanto desiderio di ampliare i propri orizzonti, ma a scrocco, a scapito della mia trasmissione, a scapito del sacrificio immenso, immane, incommensurabile che abbiamo fatto nel rinunciare alla promozione di questi libri. Pensate quanto sarebbe stata più facile la mia vita se avessi parlato del libro di Brunetta, del libro di Bertinotti. Sarebbero venuti qua, mi avrebbero abbracciato, mi fumavano il sigaro addosso, mi dicevano: bravo ragazzo, dimmi di cosa hai bisogno. Cioè, adesso magari non mi servirebbe più molto, ma l'avessi fatto qualche mese fa, comunque qualcosina avrei portato a casa. Invece ho rinunciato per fare felici voi. Linda, ciao Gianluca, come posso farti felice? Ma felice, oddio, magari ti disgusterò, è perché una storia accadutami quando avevo 19 anni, mi trovavo in Toscana. Quanti anni fa accadde, quindi? Sono del 70, quindi era l'89, super giù. Vabbè, ancora ne porti le tracce indelebili sulle tue tenere carni. Sì, perché ci ho messo 10 anni a capire cos'era successo. Praticamente ero in Toscana, dovevo andare in Spagna a recuperare un amorazzo un po' disperato. Un amorazzo un po' pazzo, che si era rotto il sollazzo. E non facciamo altre rime. No, certo. Insomma, che quindi sei andata a recuperare questa rima che non si può fare e quindi? Faccio un cartello offrendo 50.000 lire per un passaggio al volo, avevo un'estrema fretta e ero un po' vestita in maniera un po' così discinta, pantaloncini, roba estiva. Cioè ti eri vestita nella giusta mise per ottenere il recupero dell'innominabile rima. Sì, però appunto quello volevo evitare. Quello andavi a prendere. Giustamente vestivi di scinte, allora? E questo cartello con queste offro 50.000 lire. Miravo le famiglie per evitare uomini soli. Quindi hai pensato tu volevi 50 euro? Esattamente. Scusami, è logico. 50.000 lire. Ci ho messo 10 anni a capire perché quelle famiglie mi guardavano con estremo schifo. Cioè pensavo tu... offrivi le tue tenere inviolate carni ancora per pochi minuti per 50.000 lire. Sì, esattamente. Ma schifate perché? Perché era troppo alto il prezzo secondo loro e volevano negoziare oppure... Ma no, forse perché mi offrivi in maniera così... Va bene, guarda, è necessaria una catarsi. Adesso ti darò il libro infame che ti riscatterà da questo ricordo che ti tormenta l'anima e ti impedisce di avere amori soddisfacenti, lussuriose frequentazioni, finché non rimuoverai dal tuo ricordo. Poi come è andata a finire però, una volta arrivata? Una volta arrivata in Spagna mi resi conto che la Spagna era bella e lui non mi interessava più, per cui mi sono goduta la Spagna e poi sono tornata in Italia. Goduta la Spagna, cioè... Nel cuore ovviamente. La Spagna si gode solo nel cuore e in zone limitrofe. Allora, il libro è editore Rizzoli, comincio sempre dal basso. Cristo di cacciata là, sarebbe la cacciata di Cristo. E già, capisci, tu dici, con questo libro è un libro che mi riporta ai veri valori del mondo. No, perché? Perché l'ha scritto Rosa Alberoni. Quindi con questo libretto di Rosa Alberoni, esperta in cose d'amore, donna fatale del grande professor Alberoni, il più grande, immenso, esperto, smosciatore di storie d'amore, tu potrai avere comunque un'estate più che felice. Ti benedico, ciao, Fabio. Fabio, sì, buongiorno. Ciao, salve. Visto che parli di estate, guarda, la ditta di mia moglie chiude a fine mese, vanno all'estero. No, cos'è che chiude a tua moglie? Tiro già le palle, tiro già le palle lì pensando... Sì, ma scusa, lascia, a parte le palle, cosa succede a fine mese? Non ho capito. No, chiude in Italia, la ditta di mia moglie vanno all'estero, no? E lei pure va? No, mia moglie resta in Italia, però per non rodersi i denti, vediamo che libro infame ho detto ci dà. Ecco, cioè tu speravi che portassero via anche... girano i coglioni tutti e due, va bene? No, non ve li fate girare, no, se girano i coglioni anche a tua moglie sono preoccupato per te. Devi rivedere qualcosa della tua vita comunque. Delle tue scelte o a dire al mondo. Vediamola così, va bene? Va bene, un libro perfetto, guarda, della Sperling e Kupfer. E fa girare l'economia. Come il networking facilita la circolazione delle idee. 2,5 gradi di separazione di Domitilla Ferrari. È un libro che può aiutarti in questo momento a lenire il dolore reale, oggettivo, non ci voglio scherzare, di quella che è la tua situazione. Ma in bocca al lupo, vedrai che questo libro è talmente infame, anche Rosa Confetto, veramente orribile, che riuscirà a darti motivo di ricominciare una vita con tua moglie, anche se l'industria è andata all'estero. Lei troverà qualcosa per renderti felice qui anche alle nostre latitudini. Ciao, grazie, ci sentiamo tra un istante, dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. Volevo solamente dire, per avere un libro infame in regalo, e così potrei cominciare a leggere anche come tanti altri. Grazie, ciao. Ciao, mi chiamo Paolo. Guarda, a me non piace leggere, forse se mi regali uno di questi libri infami trovo la motivazione per provare a far fronte a leggere un libro. Ciao Gianluca, io volevo il libro infame, o meglio, magari 5, va, perché mio fratello sta per rendermi nipote e quello infame di mio fratello vuole mettere il nome Leonardo, non so che cavolo c'entri Leonardo, vabbè. 800240024, ancora una manciata di minuti per ottenere gratuitamente, almeno quasi, la felicità, che è un libro infame. Nella storia di Melog degli ultimi anni, la spartizione dei libri infami ha creato sempre immense occasioni di felicità nel mio pubblico. Chi è il libro infame ancora se lo ricorda. Ancora mi capita, girando per deserte contrade, di incontrare persone che mi dicono con le lacrime agli occhi, abbracciandomi, dicendomi... ho il libro infame e non ricordo, non posso ricordare, e mi citano quello che ha cambiato nella loro vita avere il libro infame, ma molto di più del sale di Vanna Marchi. Il libro infame modifica radicalmente la vostra esistenza. Luca, eccomi. Sei pronto? Allora, pronti, ecco qua. Luca, 45 anni, chiamo da Rimini. È così, quando avevo 22-23 anni, per raccogliere qualche, all'epoca, lira, per il Ferragosto, insieme ad un mio amico, si decise di andare a mettere i dischi, all'epoca facevo il DJ, mettere i dischi in un locale di Jesolo. Mm-hmm. Cosa è successo? È successo che praticamente siamo arrivati lì, il mio amico ha fatto tutta la serata, io non ho preso una lira, all'epoca un inciso era il periodo del dark, dei paninari, io ero dark, scuri capelli ma bianca faccia, E allora mi sono ritrovato il giorno dopo in spiaggia senza una lira guadagnata, senza poter entrare nel locale. Vestito da dark, con gli anfibi, le borchie, i capelli ritti. Maglietta manica lunga nera sotto il sole cocente di Jesolo. Mai più, se ci ripenso, guarda, è una roba brutta, però vabbè, così. Veramente una situazione schifosa. Penso che ancora ne avrai delle conseguenze sul piano fisico più che psichico. Va bene, ti regalerò un bellissimo libro di Giulio Einaudi Editore. Già nominare questo editore dovrebbe aiutarti, no, perché è un libro che ha una caratteristica veramente molto importante. L'ergonomia è la qualità maggiore di questo libro, perché è un libro che misura 10 cm scarse per 12 cm, quindi puoi infilarlo dovunque. Poi è utilissimo quando te ne vai in spiaggia, quando vai al mare e nelle serate solitarie, puoi farci quello che vuoi. Ti leggo un distico che sta sul frontespizio di questo libro: si chiude e si apre di continuo lo spiraglio. Già, capisci, è qualcosa. Pensa a uno spiraglio che si apre e si chiude di continuo, a meno che non sia l'eterno abbaglio della vita, e con questo ti secca. Il libro è La trappola di Franco Marqualdi, è un orrendo libro di poesie, quindi ti servirà a pensare che c'è sempre il peggio nella vita. Grazie, ciao, Alberto. Salve Nicoletti, buongiorno. Io volevo un libro, certo, infame. Pensi lei quanto mi vorranno bene i miei colleghi, scrittori, giornalisti, che hanno affidato alla consegna di questi libri nelle redazioni delle radio e dei giornali la loro giusta lecita, che sono libri fantastici, io li denigro per spirito di contraddizione, e si sentono a distanza di un mese o due trattarli come libri infami che vengono regalati come se nulla fosse. Siccome li sto finendo, me ne sta portando in tonte una nuova scorta, quindi vado avanti. Allora, in ricordo dell'estate più schifosa che ho passato nella mia vita, essendo figlio di emigrati in Svizzera, sono nato in un paesino di 1000 metri di altitudine e i miei genitori hanno pensato bene a 7 anni di mandarmi in colonia a Jesolo con una specie di associazione di Croce Rossa. E lì la colonia era gestita da suore, suore e mi hanno fatto passare di tutti i colori. Faccia un esempio di una sevizia innominabile che le hanno inferto le suore. Beh, pizzicotti vari. Dove sangue, le davano? In zone sensibili, naturalmente. No, lo dica, se ne liberi. Come rivalsa, alla fine del soggiorno abbiamo strappato tutte le lenzuola dei letti e alle suore. Siamo tornati a casa. E che avete trovato in quei letti, oltre le lenzuola? No, beh, i letti erano abbastanza puliti. Però erano le vessazioni delle suore che erano tremende. Ancora le viene un groppo alla gola pensandoci. Sì, guardi, sì, lei deve veramente, ha bisogno di un sostegno, non può farcela solo a elaborare questo ricordo. Quindi le propongo un libro di Feltrinelli, che è talmente bello che addirittura delle pagine sottolineate col pennarello, non so da chi, però qualcuno che l'ha posseduto prima di lei, quindi è un libro che già in sé ha lo stigma della sofferenza di chi l'ha avuto prima, penso sia una collega. È Feltrinelli, come ho detto, è Alexander Lowen, l'attore, non le dirà nulla, ma nemmeno a me. Il titolo è Bioenergetica, la collana è importante perché è la biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica. Ho sentito dei libri infami, mi candiderei per riceverne uno se possibile. Io sono un accanito lettore e ho una biblioteca piuttosto ben fornita, ma vorrei provare a coinvolgere in questo mio piacere, che mi accompagna da molti anni, mia moglie e mia figlia che ha 15 anni e che sta cominciando a entrare adesso nel mondo della cultura. Sono Gabriele e ho fatto la casa nuova, ho fatto una libreria enorme, ho tanti libri che ho letto, ma per riempirla ho bisogno dei libri infami. Non so se Fabrizio Intonti riesce a vedere l'elenco degli sms, c'è un ascoltatore che è in India, non può chiamare, però vorrebbe partecipare. Se riusciamo a chiamare questo ascoltatore che è in India, avremo possibilità di dare a lui l'ultimo libro infame. Può mandare sms, ma non vuole spendere soldi e non vuole chiamare, lo chiameremo noi, spenderà lo stesso la metà della telefonata, si prosciugherà il suo credito. Johanna! Buongiorno. Così va bene, ho pronunciato bene, no, Joanna? Sì, sono di nazionalità polacca. Polacca, perfetto. Canto lirico, sì. Perfetto. Canta, mi canti, la prego. Guardi, le risparmio l'estate schifosa se mi canta qualcosa. Che posso cantare? Quello che vuole, l'inno polacco, che è la cosa che ci strugge il cuore più di tutti. Beh, non devo scegliere qualcosa, scusate. No, scelga lei. Sì. Cruda sorte, amore tiranno, questo è il premio di mio fe, etc. eccetera. No, veramente la pelle d'oca e i brividi. E no, no, ma sto stirando in macchina, quindi... Allora, beh, ma la macchina funge da cassa di risonanza della sua ugola, già lungamente sperimentata per piaceri innominabili, quindi le regalo da Milman, le 12 porte, illuminazioni quotidiane per la crescita spirituale, sonzogno. Se l'è cavata semplicemente con una cantatina, fortunata. No, volevo ricordare un ricordo. Allora vuole, vabbè, racconti il ricordo, va. Allora, un giorno, cioè un anno sono partita per l'estate da mia nonna, una ragazza del città, bella, quindi faccio strafica in campagna. In Polonia questo? In Polonia, invece la nonna mi ha portato in campo di ribes neri, mi ha mostrato... Lei era vestita da strafiga polacca, quindi? No, mi sono messa in scarpe da ginnastica perché comunque sapevo che tocca fare qualcosa... E dovevo cogliere tipo un centinaio, migliaia di alberi, di ribes neri. Che ci sporca in maniera indelebile con il ribes neri. Sì, mi sono sporcata, ho sudato. Poi alla fine l'unica cosa che... un bel ricordo è che la nonna canta bene, quindi... Aveva questo dono. Quindi così sporca cosa ha potuto fare? Niente, finita la vacanza. È rimasta, per quanti mesi è rimasta sporca di nero che non poteva farsi vedere in giro? No, mi sono lavata, l'unica cosa bella è che ho potuto vendere come ribes come miei, quindi ho guadagnato anche qualcosa. Ah, quindi ma diciamo, faceva questa... La iniziale sono scoppiata in lacrime. Questa povera bambina tutta vestita carina, col vestitino della prima comunione, con le unghie tutte nere di ribes, tutta sporca di ribes, ha fatto naturalmente commozione come la piccola fiammiferaia, e quindi devo dire, visto che lei ha fatto due cose, le faccio anche un altro regalo. Le regalo consapevolezza universale, coscienza la risposta, iniziazione alla consapevolezza universale, iniziazione mediterranea. Non so cosa serva, ma l'aiuterà nella vita senz'altro. Grazie. Claudio. Pronto? Sì. Forza, siamo agli ultimi istanti. Quanto ce ne posso? Uno ancora? Dai, svelami velocemente. Una cosa dica. Io devo partire in vacanza con una ragazza, tutto pagato, ma lei si è rimessa insieme al suo ex, quindi io ho bisogno di un libro per cercare di sembrare interessante, perché andrò in vacanza da solo e dovrò conquistare. Guardi, ho un libro, se mi ha fatto apposta per lei, veramente come l'osso per il cane. Pierre Larotourou, svegliatevi, questo è il titolo del libro, glielo mando, lo legga con attenzione la prossima volta, ci pensa 10 volte prima di impegnarsi con una ragazza per l'estate. Alla prossima, non si sa, comunque in bocca al lupo a tutti. Grazie Rocchetti, grazie Chiappini, grazie Fabrizio Intonti.